Uia, uia. E poi come è andata a finire? L'hai aggabbato? Il pesce è morto. Come gli abbiamo messo il chilino 24 ore dopo da morto? Beh, forse ho sbagliato le quantità, come minimo. Ma poi non era puro già, comunque erano confezioni nuove, con tanto di data di scadenza, ed erano, sembravano confetti, no? Quindi in realtà non era chino puro, era tutta una complessa che aveva anche il supporto, no? Come si chiama, cioè le altre sostanze che compongono una pastiglia, poi c'era la, era tipo il confetto, era, no? Insomma, gli abbiamo disciolto in acqua, ma è schiattato il pesce. Magari senza metterglielo sarebbe campato, ma tanto un pesce rosso all'epoca costava 1000 lire, cioè quando me ne fregava. Infatti poi li abbiamo ricomprati, pesci rossi. Però caspita, mi ero stupito che ancora negli anni, metà anni 80 avessero il chinino di Stato, minchia. Beh, ma la cosa, la data di scadenza com'era? Vabbè, era... scadeva dopo, già adesso tu me lo dici, cioè non era scaduta, scadeva dopo vari anni, erano nuove le confezioni, in cartone, come le medicine attuali. Mi. E quello che intendevo, se c'aveva una scadenza passata oppure se doveva scadere ancora, no, perché sennò sarebbero stati avanzi proprio di guerra. No, in quelle confezioni no. Invece quelle latte penso che siano o seconda guerra mondiale o addirittura prima guerra mondiale, quelle latte lì, quelle latte rettangolari, tipo anni 30 erano, io se non ricordo male tipo anni 30, anni 20, una cosa del genere, c'è storia antica. Poi abbiamo già una marea di foto bianco-nero antiche, anni 20, anni 30, anni qui, anni tipo prima guerra mondiale. Per esempio ci abbiamo foto di zio Salvatore con la divisa della prima guerra mondiale, allucinante. Avevamo foto di gente conosciuta tipo Mariù, una tipa bellina con i boccoli, gente proprio dei tempi del Titanic, no? Che ormai sono morti e sepolti dal tempo. E sono cose belle da vedere, dai. A me piacevano gli anni 10, gli anni 20, ho già. Quegli anni là erano particolari, solo che mamma mia, morivi di tutto, bastava una tubercolosi, si moriva di tifo, di quelle schifezze di quell'epoca, che ormai si curano. Beh, sì, è vero. Io ho una sorella che è morta di peritonite perché ancora non c'era la cura. A 4 anni è morta di peritonite. Oia, andave. Avanti, Giuseppe. Due panini. Con quella grammatura lì. Escono più o meno. 100 grammi e un panino. 100-120 grammi, dipende dal panino. Lo so, c'era la fila per tutto allora per mangiare. Anche per il padre devi fare la fila. Mio padre ha fatto la settima, mi pare, o la sesta o la settima, adesso non ricordo, però mio padre era, diciamo, sapeva fare i conti senza calcolatrice, anche conti grossi, te li faceva a memoria, sapeva tutte le capitali del mondo. Di geografia sapevo un sacco di roba, i fiumi, i laghi, i monti, eccetera, erano ben formate queste cose. Io penso che la sesta o la settima equivalevano quasi a una cosa, una scuola superiore, dai. Quarta superiore forse, no, ma a parte le elementari, vero già? Sì. No, la settima era proprio dalla quinta elementare in poi doveva essere, secondo me. Perché non so come fossero i gradi di istruzione all'epoca già. Per esempio in America hanno questi termini strani, college, praticamente college sarebbero i superiori nostri, mi pare. Almeno credo. E vabbè. Mamma mia, dall'elementare mi sembra che siano passati secoli o già. Il primo giorno dell'elementare, molti piangendo perché non volevano staccarsi dalla mamma, dal padre. Quanti ricordi, guarda. Tempi passati, solo Marco, sei tornato indietro. E comunque, ti sto dicendo, il grado di istruzione della City, ma è la City l'aveva fatto, il grado di istruzione che aveva era equivalente a quello di una persona che aveva studiato le superiori, perché, ed era anche molto informato, in matematica era un cranio, mio padre faceva conti di milioni tutto così a capo, a testa, senza, quando andavano in negozio dovevano pagare, gli diceva già quanto gli dovevano dare, questo più questo, via, comunque gli faceva conti 5 secondi, diciamo, come fa signor Ma? Io sono, diciamo, ho sempre fatto così, non ho mai usato calcolatrice. Buono. Vuol dire c'era anche una mente aperta, diciamo, una mente predisposta anche per la matematica, cosa che a me non piace, invece a me la matematica. Ho già detto a mamma che rispetto ai suoi tempi, ai tempi di nonno, anche ai tempi nostri, perché io sto sempre lodando la mia insegnante italiana delle medie, e che era brava, era una siciliana, no? Si chiama, è viva, si chiama Maria Concetta Oddo, è venuta dalla Sicilia, era una brava insegnante. Invece mamma ha detto che adesso gli alunni, cioè per quanto tu possa insegnare bene, sono delle capre, cioè alla terza media purtroppo vanno promossi perché il preside vuole che si promuovano, ma sono dei mentecatti già, dei mentecatti, tranne rari casi che sono proprio bravi, intelligenti. Il resto sono delle capre, come dice Scarbi, capra. No dai, non sono tutti così però, perché io, i miei figli, non perché siano loro, però sono tutti due molto bravi a scuola. Manuela è stata sempre brava, è stata sempre la prima della classe, tanto è vero, se l'ha portata all'università, è stata promossa con 110 e lode e adesso sta facendo la specialistica. Però anche Marco è molto bravo, ha sempre preso dei bei voti, tutto 9, 8, 10, tutti i voti così, molto intelligente anche lui. E poi per non parlare dell'informatica, lui è stato sempre così, è stato sempre bravo, tanto è vero che ha preso quel ramo lì adesso, informatica. Diciamo che è stato sempre bravo da piccolino, da quando non sapeva leggere lui faceva già i grafici, cambiava il grafico delle canzoni, cercava i cartoni animati che piacevano a lui, senza saper leggere ancora, immaginati. Poi lui all'asilo sapeva già leggere, sapeva già leggere e scrivere all'asilo, infatti ci dicevano di non... che non era giusto che imparasse prima degli altri, perché poi non seguiva insieme agli altri alunni, eccetera eccetera, ma era una cosa sua istintiva, non è che siamo stati noi a forzarlo. Mamma mia, l'asilo poi mi... io ero via le Mameli dalle suore, era veramente grande quel posto, bello anche me, ho un bel ricordo e ricordo anche le mie malefatte, me. Ah, quel disturbo? Sì, c'è un disturbo elettrico. Beh, anche qua ogni tanto ci sono disturbi elettrici, che siano phon, lavatrici, non lo so, robore tipo phon, mi già, anche qua lo fa ogni tanto. Ma da lui deve essere ancora più forte. Ma io qua non sento nessun tipo di rumori, manco QRM, tant'è vero che quando me l'ha fatto nel Galaxy ho subito capito che non era una cosa naturale, perché qua QRM non ce n'è mai, non ce n'è mai, se tu vieni e te lo faccio sentire non c'è mai QRM. E già, ogni tanto ti lamentavi che avevi il QRM a 9, me lo ricordo anni fa, che se avevi il QRM alto non sentivi gente. Oh no, stai sbagliando. Il QRM alto io non l'ho mai avuto qua, no, almeno che sia roba sì di cose, propagazione può essere, di propagazione in effetti può succedere, quando c'è la propagazione sì. Sì, può essere che fosse estate, adesso non me lo ricordo, era quando ero venuto a casa tua forse a pigliare il Kenwood. Poi avevo segnali alti di fondo, capito? E non mi ricordo più che anno era, non me lo ricordo, cioè che stagione era, non me lo ricordo già. Io praticamente quel reme lo ricevo solo qua esclusivamente dalla propagazione, che ci sono tutti quei rumori, wii, quella roba lì, però se no normalmente non ce n'è. Ehi, forse avete parlato in due, vai. Bah, nome. Giuseppe. No, c'è un segnalino. No, un segnalino, un segnale abbastanza. Eia. Ehi, hai detto bene già, non si torna indietro. Mamma mia. Si va solo a peggiorare, a invecchiare. Che vita senza senso. Poi arrivati a metà c'è, prima è tutto in salita, poi arrivati a metà della vita media c'è la discesa, il, come si dice, il viale del tramonto. No, è il contrario, prima c'è la discesa, poi c'è la salita, verso il cielo. Vabbè. Sì, in un certo senso sì, ma può essere anche la discesa verso l'inferno, io sono già abbonato. Tu sei un diavolo, avanti Giuseppe. Come va con un buon cuore? Come noi, e che fine hai fatto poco fa? Tanto stavo andando in mano, ho preso con durante la ceppa di pianissima. Io mi sono assentato, l'ho chiuso il televisore, già l'ho detto, adesso vado a farmi la luce, è già tardi per me, arrivo subito, poi dopo vi saluto, eh. Vai, tranquillo. Avanti, Marco. Mi ha detto cuocomane, mi ha detto. Sì che ti sento. Ehi, ha detto c'è quel disturbo che ti copre. E vabbè, fabidemo noi. Però ti stavo dicendo, Marco, oggi c'è il revival. Ehi, quante volte anche con altre persone ne parliamo? Allora, se proprio vogliamo essere pignoli, il primo anno di elementare l'abbiamo fatto in un posto un po' banale, era praticamente, aveva una serranda, era una specie di garage tutto addobbato bello, ma io ero proprio piccolo, mi ricordo solo che avevo una specie di valigettina nera di plastica colorata, la prima che ho avuto, dove c'avevo tutte le cosettine da mangiare che mi preparava mamma, le cornie, o le cornie, a me piace più dire le cornie. Poi dal secondo anno però c'era la scuola lì, il Gesù Bambino, dove c'erano le suore, bello però, bello, guarda. C'era la sala per mangiare, la sala dei giochi, la sala del riposo, che ti facevano mettere a braccia concerte, non come questi demoni che ci sono adesso all'asilo. Lì dovevi stare braccia concerte, testa giù e dovevi riposare, così ci dicevano. Era anche una cosa che ti insegnava la disciplina, adesso disciplina non ce n'è, adesso sono dei cose che possono, che fanno quello che credono, nessuno gli può dire niente, capito? Anche a quello serve la scuola, e anche il servizio militare, serve un po' a insegnare la disciplina. Non che fai chi su che ti piace, anche in casa con i genitori, non esistono. Marco, io mi ricordo questa maestra che praticamente, aspetta che spiego qualcosa. Mi ricordo questa maestra che era un becca attiva, che ha avuto l'elementare, e se la prendeva sempre con questo Pala Giuseppe, che era un po' cicciottello. Gli diceva, Pala Giuseppe, patatone, devi fatti i compiti. E lui veramente, sino a me, mio padre e mia madre stavano lavorando e io sono dovuto andare con mio padre, perché mia madre lavorava e non ce l'ho fatta. Pala Giuseppe, metti le mani sopra, mi ricordo ancora il cognome, immaginate a me quanto mi venivano i brividi quando vedevo queste cose, metti le mani sopra il banco, e gli dava le bacchettate con quella bacchetta che usava per segnare nella lavagna quando lei per dire faceva le operazioni e cose del genere, e con la bacchetta lei segnava le cose, no? Per farcele notare, e con quella bacchetta lì gli pestava le mani e poi lo prendeva, gli faceva togliere gli occhiali, gli dava gli schiaffi a faccia, me lo ricordo ancora bene. Asso, una nazista era. No, vabbè, la mia dava gli scappaccioni dietro la testa, no? In viso no, magari dietro la testa, non dietro l'orecchio, quando recominavi qualcuna. E toscana, era toscana, non credo che sia più vivente, sono passati troppi anni. Si chiamava Adina Masala, cioè lei era toscana ma sposata con un sardo. Poi robusta, tutta piena di oro, no? Spiaggiava sempre miseria, però era tutta piena d'oro, collane d'oro, anelli d'oro, bracciali d'oro, insomma. Classica maestra col grembiule nero, come si usava una volta. E vabbè, giustamente ti menava se combinavi qualcosa, non è che lo faceva gratis. E i genitori dicevano, mi raccomando, due scappellotti che poi gli do il resto io. I genitori erano così una volta, adesso sono tutti, mio figlio non si può toccare. Capito? Perché dicono, non credono nei metodi punitivi. Infatti si vede che i figli adesso sono tutti randaggi. No, almeno quelli di ventenni così, sono tutti randaggi. Si mettono la voce in strada, fanno di tutto e di più. Capito già. E invece ce n'era uno che combinava sempre qualcosa in classe, pigliava schiaffi ogni giorno e una notte ogni giorno, lo sai, sistematicamente ogni giorno una notte. E il padre, che era un po' sbruffoncello, non ne voleva più firmare notte, anzi ce l'aveva con la maestra, che la diceva, era lei che ce l'aveva col figlio, invece era il figlio che era casinista. Beh, il figlio per indisciplinato che era all'elementare, adesso invece è poliziotto, lo sai, una cosa incredibile. Ma tua madre ha mai insegnato a San Giovanni Bosco, alle scuole elementari che ci sono a Sacro Cuore? No, assolutamente no, solo medie. Quindi non la conosci, se no le avresti dominata, la maestra Anna Masalamura. Questa era la maestra cattiva, sembrava l'attrice a bue. Per esempio a noi è capitata quella buona di maestra, c'era l'altra, si chiamava La Fiori, aveva una faccia proprio da bulldog, quella era più cattiva tra virgolette. Però vedi all'asilo, non vedi più le schifezze che vedi adesso, maestra d'asilo che ti sbattono sul tavolo, che ti tirano i capelli, quei filmati che si vedono in TV, no? Di queste pseudo maestre d'asilo che sbattono i bambini, che li picchiano, li mortificano, non se ne vedevano quei tempi. E i bambini allo stesso tempo si comportavano bene, però non erano come gli scatenati, gli scalmanati di adesso, che sono delle bestie lasciate allo stato brado. Soprattutto quell'asilo lì, appunto, stavi composto, dice stai composto. Capito? C'era anche, ti insegnavano un po' come si vive nel mondo con le persone normali, no? Come le bestie. E ti metteva la braccia concerte, non vi dovete muovere adesso, perché il primo che si muove le metto la nota. Se ti porti in casa con le braccia concerte come mummie, me lo ricordo come se fosse oggi. Quello magari alle elementari no, all'asilo però, cioè dopo mangiato ci facevano riposare, dovevamo stare sul banco un po' con le braccia conserte e se volevi, cioè poggiavi la testa sulle braccia e riposavi, chi riusciva a riposare, io no, te la voglio capirti. Però ripeto, non c'erano le... queste maestre adesso che ti pigliano a voce, che ti pigliano, ti strappano i capelli, non le vedevi porcheria del genere. Adesso non sono maestre professioniste, sono maestre prese dalla strada, non so che cosa siano. Sono maestre che hanno le problematiche loro, magari questa gente qua ha visto violenza in casa loro, che cazzo adesso, magari genitori che picchiavano la madre, roba del genere, sai, se ne portano appresso queste cose. E poi, capito, si sfogano sui bambini, è normale, e sono persone che sono proprio psichicamente inabili. Poi anche alle elementari, no, mentre noi avevamo la maestra, l'unica, per fortuna noi abbiamo avuto una donna come maestra, certi avevano avuto il maestro, no? Noi la vedevamo come la seconda mamma. capito. Invece adesso, già dall'epoca di mio cugino, avevano le maestrine giovani giovani, la maestra Carla, la maestra Enza, cioè la maestra deve essere una, non queste maestrine che l'una non sa quello che fa l'altra. Non mi piace questo sistema di adesso, delle elementari, queste maestrine poi troppo giovani, mentre la nostra era una maestra che aveva le palle, era una maestra che aveva già insegnato tantissimi anni, quindi era esperta. Queste giovani giovani ventenni non mi rappresentavano niente a me, non hanno esperienza, è strano il sistema di adesso. Allora, vediamo se Giuseppe ti ascolta adesso. Giuseppe? No. Marco, ma per diventare maestre anziane, cosa? Anche loro hanno cominciato presto. Poi ce l'hanno fatta, hanno fatto il callo, eccetera. E lo so, questo sistema che ogni maestro insegni a loro la sua materia. Prima la maestra sapeva tutto, storia, geografia, tutto. Sì, per esempio, mamma, quando va a fare esami specialistici, che sia cardiologia, che sia ortopedia, che sia tutto, preferisce sempre il medico, già uomo o donna, però che abbia esperienza, che sia grande, che sia almeno cinquantenne. Invece quando si vede questi bamboccetti ventenni, no? Che viene da ridere, cioè vuole gente con esperienza, capito? Non vuole questi appena usciti dalla facoltà, che sono ancora apprendisti, non le piace, vuole gente con esperienza, capito? Cosa, Giuseppe? Senti, due ruote stiamo facendo. E allora Valerio, Giuseppe ha detto che tu entri molto poco, che non c'è gente al ghero, cercate di essere più numerosi. Valerio? Vabbè, non è che ti hanno detto che sono diventati radioamatori, no? Capito? E quindi devo rimanere in banda amatoriale, capito? Sono Gianni tra i medici. Claudio mi ha battuto sul tempo, Valerio, volevo chiedere, per esempio, Roberto di Alghero, che fine ha fatto? È diventato radioattore, quindi la 27 abbandonata, così? Sì, ha detto proprio così, capito? Oramai sono diventato radioattore, la 27 non mi serve più, capito? Ah, esci di me, nel di grande, dal culo, vai. Giuseppe, non ho voluto dire, ma proprio dalla campamanna, capito? Per carità, tutti quando diventano marescialli si crede da sì chissà cosa, ma non ho capito che le comunicazioni si possono fare anche qua a 27, sempre di radio si parla, comunque ognuno fa quello che le piace, io ho chiuso e non me ne affrutti più nulla. Comunque Marco, tu sei una ratta pignara. E che vuol dire? Lì pipistrello, in Acareggio. Ah, a tavolta come ratta pignara. Ratta pignara. Marco è ratta pignara, che mangia di nulla. Ehia, a proposito, mi è arrivato il pranzo, un panino superlativo. Come si chiama lo pipistrello? La ratta pignara, capito? Perché appartiene alla famiglia dei topi, quindi il topo si chiama ratto e il pipistrello è la ratta pignara. Ratta pignara, mai sentito. Eia, comunque sì, questo, Claudio, c'è questo fenomeno che diventa radiatore e crede di essere superiore in qualche modo, non tutti, mi ricordo che 27 c'erano dei CB all'epoca che poi sono diventati radiatori, però i 27 non sono più entrati per un altro motivo, perché i 27 hanno preso un bel colpi, sono stati selvaggiamente presi per il culo, non voglio fare nomi, poi te li dirò di persona. I mamma non mi riguardano questi discorsi, io sono CB e CB rimango, a me la carta mi dice e basta, io sono la carta rematore, poi non mi sento rematore, non sono mai stato rematore e perciò continuo a essere CB e a fare CB, rematore lo lascio fare a chi lo sa fare. Quelli che sanno parlare bene l'inglese, quelli che sanno comunicare, capito? Io faccio CB e me ne vanto di essere CB, vero Vali? Se no già mi metto in tasca a me qualcosa. Se tutto va bene, poi c'è una macchina di antenne, ci sono sul 7-4. Scusate quanto ci hanno preoccupato. Vabbè, facciamo girare. Avanti Gianni, riprendi. Vabbè, non è necessario attendere, se poi magari te ne pinti, ti tocca di nuovo comprare il boh. Vabbè, comunque, anch'io l'ho preso come te, la 27 è sempre un modo di fare radio. Poi c'è chi vuol fare radio amatore, faccio radio amatore, nessuno li rovietta. Sì, invece che fare chi fa radio amatore è tra che 27, e quindi mi piacciono di più anche a me. Lascia perdere Gianni, lascia perdere, no, no, non devo vendere niente, le smonto e basta. Sto concludendo un'operazione, adesso come ho pedito a Valeria, se riesco, se riusciamo a concludere all'anno nuovo, sto prendendo una casa singola, capito? Quindi da qua ne tolgo tutto e basta. E quella nuova non piace proprio nulla, ma gli metta anche da vedere il video. Vabbè, comunque bando alle ciance, cose personali. Mi prendi Marco? Sì, sì, tu sei una ratta pignana perché praticamente sei come i pipistrelli, capito? La notte non dormi, stai girondolando per la casa, mangi in orari di pipistrello, quindi per me tu non sei Marco Congo, sei Marco ratta pignana. Ascolta, me lo cambio il nome attivo. Dove poi sono Marco Ratta Pignara? Eh? Almeno è originale. Vabbè, dai che sto mangiando. Quindi non posso riprendere. Riprendo dopo, ciao. Guarda che pipistrello mangia anche con le ali. Zio Giuseppe, zio Giuseppe. Io non ne salgo l'alghero, mi porto via tutto, eh. La radio mi porto via, intanto non la sai usare, me la porto via. Così è. Vediamo mi, quando vengo io voglio vedere se lì al posto suo l'avrò messa io. No, devo portare un altro microfono, Giuseppe. Un altro microfono da tavolo, che non abbia cursori, non abbia niente, che abbia il PTT e basta, mi. Capito? Adesso vediamo se. Io non ci vedo un cacchio, bisogna parlare ad Andrea di nuovo, ma lo faccio rimettere il keyboard perché c'ho un MB più 4 nuovo, entro la scatola, che però è connessione IAESU, era connessione keyboard, l'avevo fatto fare connessione IAESU, adesso lo faccio riportare a keyboard e poi ti porto col microfono, così lo regoliamo, non c'hai niente da toccare e vedrai che esci molto molto meglio rispetto a quello lì da palmo, capito? La posizione dell'antenna ce l'ho già a memoria, io l'ho già vista, ti ho detto che il palo, perdonatemi un secondo che glielo spiego così, Giuseppe, il palo va messo dove tu hai messo quella della barca, mi hai capito dove va messo? Va staffato lì, e boh, non c'è problema, facciamo superare la mantovana con Valerio e tu sei a posto, e la Gran Prix rimane lì, non tocchiamo niente. Perfetto, hai capito al volo, no? Quella è la barca, poi vediamo di posizionarla all'altro angolo della ringhiera che non dà fastidio perché è piccolina e basta Giuseppe, capito? Lì ci mette un palettino bello da 2 metri, telescopico, quindi che sale, supera la mantovana e tu sei a posto. Dobbiamo far arrivare l'antenna, almeno i radiali, all'altezza dell'antenna della Gran Prix e tu sei a posto. Già lo vedo con Valerio. Non ti preoccupare, è già tutto pronto. Ok, Marco sta mangiando, quindi Gianni riprendi tu e fai girare per Valerio. Paga. E adesso come fa bel tempo? Vedi, oggi sarebbe stata una bella giornata per fare questi lavori perché sembrava una giornata primaverile stamattina, guarda, era troppo bella, una bella giornata veramente, ci sono posti dove ci sono allagamenti e cose, noi siamo grossoni. Paga, avanti, vali. Vali si è messo allontanato, sì, ero anche cotte stamattina, io stavo lavorando, era Valesi che c'era. Stavano ultimando un lavoro degli edili, quindi ero lì, facevo le sopralluoghi, ero maniche corte, c'avevo la felpetta, me l'ho tolta, ero maniche corte, una bellissima giornata, spero che domani faccia bella giornata così come oggi, che sono a riposo, domani mattina esco morto, Domani mettiamo in moto, faccio un giretto, non ne frega niente, ma lo faccio camminare un po'. Speriamo che sia bello, comunque. Non ha dato nessuna perturbazione in arrivo, però c'è freddo, io sono uscito poco fa nel poggiolo a prendere mangiare di Filippo, ma c'è freddo, e la mattina c'è molta umidità, quindi è per quello che ancora abbiamo un po' di caldo, capito già. Gappa gappa. Avanti, Valerio, riprendi, se no riprendi tu Giuseppe. Hai capito, poi dice tuo nipotone, brava, ti ha dato anche il permesso. No, stai arrivando benino oggi, la modulazione evidentemente è bella calda, la radio. La modulazione è perfetta. Un po' cupa, ma quello dal microfono, normale. Però già sistemiamo anche quello, sta arrivando benino. 8.9, sì, qua, non ci sono problemi. Sì, va bene. Dovrebbe essere uguale. Via. Vabbè, io al computer mi stavo aggiustando un po' di roba di lavoro, come sempre. E siamo a fine mese. Adesso ho capito. Ci hanno dato, non basta che abbiamo il telefonino aziendale con tutta la situazione, non sempre devi aggiornare foto, mandare sul gruppo di lavoro tutto ciò che fai, cosa vedi, cosa non vedi, eccetera. Adesso poi ci hanno dato anche il dischetto con la chiavetta e si è tutti i dati inerenti alla giornata lavorativa, in modo che a fine mese poi li scarichi, li stampi e consegni tutte le relazioni, capite? Quindi ogni giorno mi devo mettere al computer, relazionare tutta la giornata di lavoro, inserire nei dati aziendali. Hai compreso? Con un computer mio, con la corrente mia. C'è questa rottura di balle, guarda, allucinante. Riprendi già, non ve la posso più, ho perduto l'andamini. Cazzo, super controllati siete, ho scappato adesso, tutto il lavoro che fate deve risultare. Stanno portando proprio, guarda. Io mi ricordo a Muros controllavano addirittura i pezzi che prendevi, dovevi prendere più di 1500 pezzi al giorno, se no non rendevi. Già, guarda, ti ripeto, non siamo controllati, io devo controllare, scrivere e poi mandare in azienda, perché tutti i referenti, io sono referente di zona, del distretto 6, quindi tutti i referenti devono riferire agli assistenti tecnici tutto ciò che tu fai nella conduzione, capito? Perché io faccio parte della conduzione di impianti, quindi tutto ciò che si sviluppa durante le scene 40 tu lo devi relazionare, capito? Relazionare. C'è gente che sta giornate intere, perché? Perché non se lo relaziona giornalmente, io mi sono abituato a relazionarlo giornalmente e a fine mese, perché entro il 5 del mese successivo devo consegnare le relazioni, a fine mese pigio e inizio a stampare, c'ho la stampante che mi hanno dato loro fortunatamente, stampo e faccio tutte le relazioni, tutte i misuratori in portata, quindi durante il mese, per giorno, quanti metri cubi ora, quanti litri al secondo sono entrati negli impianti, quanta corrente abbiamo consumato, quanti reagenti abbiamo consumato, quanti reagenti ho ordinato, se ho fatto ordini di materiali, se ho comprato materiali, quindi c'ho tutto. Cazzo, ma non ti dico, siamo in sei che facciamo questo lavoro. Io me lo sto facendo giornalmente e mi sono accorto che va molto molto bene, perché vedo i miei colleghi che non ce la fanno a relazionare entro il 5 e portare tutto in ufficio, invece io il 2, il 3 sono già lì con la mia cartella, te arrangia, di ciao, arrivederci, firmo che ho portato tutte le relazioni e basta, e ho finito, capito? Però dico, cioè, ma come si fa? Se quello è il mio lavoro, è che purtroppo non c'è il tempo materiale per poterlo fare, perché io inizio la mattina sto partendo da Sassi alle 6 e mezza, devo entrare alle 7 e mezza, quindi immaginati tu, mi organizzo, mi faccio, poi sto in giro tutta la mattina, impianto per impianto, da Vidal, Babà Badesi, da Badesi a Montigione, poi mi chiamano, scendo a Trinità, da Trinità vado a Marinella, a Paduletta, a Isola Rossa, a Vignola, fa poco di Cibura, a Santa Teresa, e sto sempre in giro, capito? Soprattutto quando c'è necessità di autospurgo, di movimenti, di materiali, eccetera. E quindi non ce la fai a sederti, per dire, io ho un mezzo appoggio a Santa Maria Colinas, però c'è un bell'ufficio, però non ce la fai a sederti a fare solo quello. E quindi mi sono fatto dare il dischetto con tutta la cosa e carico, me lo carico nel mio computer, capito? E vabbè, quello è il mio lavoro, quello devo fare. Speriamo che duri, se no si abbia le luci. Avanti, vale. No, assolutamente, no, non avevamo manco peggi, no, non eravamo un po' al Pascolo Bravo. Essendo al Pascolo Bravo c'era un fuori controllo da parte dell'azienda, capito? Da parte dell'azienda, quindi da un paio d'anni a questa parte l'azienda ha deciso di mettere le cose bene in regola, anche e soprattutto con i mezzi, che è molto importante. Io in questo momento, assieme ad un altro gabbiero, siamo in due che abbiamo ancora il mezzo a casa. Ciò vuol dire che la mia gestione del mezzo è stata non buona, ma buonissima, mentre altri se ne sbattevano altamente le balle, soprattutto con la manutenzione del mezzo, la pulizia, le cose, eccetera. La mia è come il giorno che me l'hanno data, e quindi anche su quella parte lì non ho problemi, non mi posso lamentare. La gestione invece aziendale è derivata dal fatto che, come ti ho detto prima, c'era un po' di menefreghismo generale, e quindi l'azienda, assieme alla casa madre, che è Avalon, perché noi gestiamo tutta la parte depurazione e tutta la parte tecnica dei lavori, sia straordinari che ordinari, mentre loro fanno solo la gestione dei potabilizzatori e basta. E quindi, siccome il lavoro è tantissimo, perché è tantissimo, siamo solo per la depurazione siamo 800, mentre quello della potabilizzazione sono circa 450, neanche 500. Perciò siamo tanti, perché c'è tutta la Sardegna, da nord a sud, qualsiasi cosa. E la gestione dei lavori stava diventando un po' una cosa così. E vai per dire da Cugusi, vai da Cugusi, dico Cugusi perché è il nostro fornitore, prendi quello, fai il buono, poi mi arrangio io. Non funziona più così. Sono le richieste, sono i preventivi, come tu mandi il preventivo da me personalmente, io vado, faccio fare il preventivo, lo mando in azienda, devo aspettare che l'azienda mi dia l'ok per poter comprare materiale, mentre invece prima si andava, si prendeva, si facevano i buoni, nessuno firmava, arrivavano le fatture in azienda, ma questo materiale chi l'ha comprato? Per quale impianto è servito? Per via Ugo Lamalfa 34 è servito, hai capito come funzionava? Gente che stava facendo lavori a casa andava a comprare pezzi per il bagno, pezzi per qui, pezzi per là, a conto dell'azienda. Non funziona più così. Ha puntato bene i piedi e ti dico che c'è una circolare che, se tu non hai, non segui le direttive aziendali, rischi anche licenziamento. Quindi bisogna stare molto, molto con gli occhi aperti, capito? Vai già. Per non parlare dei mezzi che siete controllati via coso, no? Adesso via satellite. Sì, tutti i mezzi sono muniti di GPS, e quindi l'azienda sa tutti i movimenti della macchina, anche quello è derivato dal fatto che molti la usavano per farsi i cacchi loro, chiaramente a conto dell'azienda, perché sono le carte di credito, ogni macchina c'è la carta di credito aziendale di due rifornitori. Prima avevamo essere Agip, adesso abbiamo Kuwait e Agip, quindi ognuno riforniva la macchina e niente, non c'era GPS, non c'erano scritte, eccetera, eccetera. Adesso le macchine sono tutte nuove, bianche, uguali alla casa madre, perché lei che ha deciso così, mentre prima erano rosse, adesso tutte bianche, uguali alla casa madre, per non fare nomi, praticamente con le scritte, tutti, sia loro che noi, con tutte le scritte, sia loro che noi, tutte col GPS. Quindi è un fatto di controllo generale, perché anche lì c'era un sistema molto molto... Al Pascolo Bravo ci siamo capiti, no? Io non, chiaramente non ho niente da dire, perché a me che ci sia il GPS adesso o che ci fosse prima, io la macchina la uso per lavoro o un diverso lavoro rispetto ad altra gente, perché ho anche la reperibilità, quindi ogni qualora la macchina si sposta anche di sera per andare ad un impianto, sto andando da casa mia, perché la mia è praticamente sotto controllo, dall'impianto di appartenenza alla mia abitazione. Dalla mia abitazione, quando ho la reperibilità, io posso andare in tutti gli impianti del mio distretto. Non posso uscire fuori distretto, perché sennò devo comunicare il perché sono uscito fuori distretto. Se coprì, siete molti? No, io no, io ci sono. Si aspettava la risposta di Valerio. È normale, vorrei, come tutti i lavori, Gianni c'ha il suo lavoro, non penso che lui in dotazione, so che ha un mezzo di aziendale, quindi non penso che Gianni, dopo che fa tutto il lavoro che deve fare, prende il mezzo aziendale e se ne va a trovare a Claudio. No, chiaramente avviserà l'azienda, dice, guardate, sto usando il mezzo, mi sto spostando da qui a qui perché ho necessità di andare a casa. Queste cose non succedevano, capisci? Soprattutto nella tua zona, sto parlando della tua zona, perché nella zona di San Marco hanno sempre fatto i cacchi loro, sia nel depuratore vecchio a Mariotti, sia anche ancora oggi alla zona nel depuratore di San Marco, hanno sempre fatto i cacchi loro. Macchine che andavano e tornavano da San Marco ad Alghero a farsi il panino a casa o a prendere, accompagnare la moglie a fare la spesa, e così facevano dal Mariotti la stessa cosa. Quindi queste cose non vanno bene, perché è un'azienda che ha 59.000 dipendenti, cioè viene male 59.000 persone che fanno i cacchi loro, capito? A fine anno sono grandi, grandi spese, noi abbiamo un budget e quello non dobbiamo superare. Io quando sfioro i 4.500 km al mese, che mensilmente io ne faccio 5.500 anche 6.000, ho tutto documentato, capito? Perché a volte capita che salgo e scendo 2-3 volte dalla mia zona, e salire e scendere da Vidalba all'Isola Rossa non è vicino, sono sempre quei 50 km andare e 50 km a tornare, e quindi sono sempre 100 km in più che tu fai, li devi documentare, capito? Perché se tu non li documenti, l'azienda ti può mettere in ponte, cioè, come mai lei ha fatto tutti questi chilometri questo mese? Guardi la tabella di marcia, vede, andate e ritorno, andate e ritorno, andate e ritorno, andate e ritorno. Ho sfiorato purtroppo il chilometraggio giornaliero perché avevo problemi in diverse zone, ma a me non mi è mai successo, perché io documento tutto e vi faccio vedere la mia agenda giornaliera, ho una tabella di marcia che è tutto documentato, orario di partenza, orario di arrivo, chilometri di partenza, chilometri di arrivo, è tutto il percorso che faccio giornaliero. Basta farla funzionare la testa, se tu la testa non fai funzionare a fine anno l'azienda ti castagneggia, ma non a fine anno, anche a fine mese. Io ho un collega che sta scontando 40 giorni, 40, a 5 giorni al mese, deve scontare 40 giorni, a 5 giorni al mese, proprio per queste tronzate, macchina ferma mezz'ora al bar, vista col GPS, macchina ferma in campagna di amici dove lui non ci doveva andare, macchina ferma da altre parti, capito? Timbrature col telefonino, mezz'ora dopo l'ingresso di lavoro, si lavora così, quando un'azienda ti paga, un'azienda è seria, questa è una delle più grandi multinazionali al mondo, non si può permettere il lusso di regalare denaro, siamo troppi, capito? Direttore delle strade ferrate Sardemi. Giuseppe, tu lavoravi in ferrovia, no? E certo, non lavorava lui stava seduto in ufficio. E vabbè, non dico quale azienda, ma comunque il tuo lavoro era un lavoro molto molto delicato, Giuseppe. Ed erano anche altri tempi sicuramente. Aggiungo, e poi passo il microfono a Gianni, che non solo, attenzione, noi, perché le macchine che noi abbiamo non sono comprate dalla mia azienda, sono tutte leasing, prima avevamo l'Arval, adesso sono leasing plan, quindi o 100.000 km o 2 anni le macchine vanno cambiate. Io ne ho già 50 a 7.000, quindi penso al prossimo anno me la cambiamo di nuovo. Capito? Si cambiano a 100.000 km ogni due anni se non superi i 100.000 km. Capito? Quindi le poste è la stessa cosa, caro Valerio. Le poste, le panda delle poste sono tutte leasing tram. Leasing tram e Arval hanno tutti il GPS, sono tutte controllate. Le macchine dei carabinieri, tutte le macchine dei carabinieri sono in leasing plan e Arval e tutte hanno il GPS, quindi non si scappa più da nessuna parte. Anche le forze dell'ordine sono controllate con le macchine di servizio, tante pur certe che oramai col sistema cartellino facile, temperatura facile e assenteismo, le aziende, che siano aziende private, che siano statali, che siano regionali o che siano provinciali, hanno tutti i mezzi col GPS, perché nessuna azienda di nessun tipo di appartenenza ha le macchine sue, sono tutte in leasing. Sì, sì, aspettavo, sì, ma sono d'accordo con voi. Comunque questa è roba certa e sicura, perché è così. Vai Gianni, quindi tu col tuo mezzo che ti dà l'azienda per andare al lavoro, per fare il tuo lavoro, che non interessa a nessuno cosa fai, lo prendi e te ne vai a fare i cacchi tuoi? Eh no, questo no, io sono super controllato dal telefono, praticamente a me ogni due secondi mi scuola il telefono, dove sei, c'è una cosina da fare, questo e quell'altro, bumba, corri qui, corri là, sono sempre freniti col mio lavoro, capito? Mi chiamano in continuazione, c'è quello che gli serve una cosa, devo andare a prenderla, portargliela, eccetera. Devo stare sempre così, anda e torra, come ti rubano di bussi d'orra. No, niente, una volta solo mi è capitato che mi hanno chiamato in ufficio per vedere come mai avevo consumato tutto il gasolio che c'era nella scheda, perché noi facciamo la scheda, no? E io glielo ho detto, che il mezzo non lo stavo usando solo io, per cui doveva informarsi a chi l'aveva usato, erano andati a Santa Teresa, erano andati da altre parti, quindi che non dovevano chiederlo solo a me. Ah, dice, va bene. Vedi bene, no. Io c'è stato un periodo che facevo deposito a Canica, mi sembra che l'avevo già detto, no? In pratica tutti lasciavano la chiave attaccata alla bacchetta e stava succedendo che qualcuno che doveva uscire per fare commissioni d'ufficio, per carità, posso prendere la macchina, la panda che c'è, e quello diceva, che dice, sì, prenda quella, no, come funziona? La macchina è intestata a me, l'azienda, sia la leasing plan, perché quando a me mi ha consegnato la macchina leasing plan sono andato a prenderla io, ok? L'ho presa io, ho firmato io, l'operazione ce l'ho io, l'avevo custodita io perché c'è scritto nel contratto di gestione aziendale, e quindi la macchina ce l'ho io, ok? A me, per poter dare la macchina sia in orario lavoro che fuori orario lavoro ad un altro collega, mi deve autorizzare l'azienda da Milano, non da Cagliari, no, da Milano. Noi abbiamo l'ufficio sia a Cagliari, a Milano e a Madrid, ok? Quindi quando a me l'azienda, quindi il responsabile aziendale dei mezzi, che è un ingegnere con le controballe, no, mi dice, per iscritto però, non al telefono, mi scrive che mi autorizza appunto a dare la macchina a Gianni, allora io la macchina do a Gianni. Io macchina, le chiavi della mia macchina in deposito non le ho mai lasciate, me le ho sempre portate appresso, capito? E doppioni non ce n'è in ufficio, a Canica, i doppioni sono tutti a Cagliari delle macchine, quindi non funziona così. Cosa? Cioè io faccio il pieno, metto chilometri di fermata, arrivo, la mattina ci sono 50 km in più, ci manca mezzo serbatoio, e cosa devo? Chi ha preso la macchina? Io, chi ti ha autorizzato a prendere la macchina? E mi serviva, non funziona così da noi, no? Queste cose non esistono, senza autorizzazione il mezzo che tu hai in consegna non si tocca, nel modo più assoluto. Vai già. E io invece cioè da noi è diverso, perché io lavoro solo la mattina, c'è chi lavora la sera, se serve il mezzo io devo lasciare le chiavi, e ci sono molte persone che magari lo usano, vanno a Santa Teresa, poi lo lasciano, lo trovano col pieno, lo lasciano senza nafta e cose. Quando io arrivo la mattina devo anche andare a farmi il pieno, capito? Perché loro non ce l'hanno fatta, a volte te lo lasciano carico. Ho detto, ma il furgone si è trovato carico, no? E allora te lo devi scaricare, perché poi vabbè, la mattina serve. No, non entra in zucca, ma era tardi. Era tardi, non me ne frega un cavolo a me. Ma, cioè io lo sai che l'uso la mattina, devo fare le consegne. Non ho capito. Quella è gestione, mal gestione. Non è colpa tua, è mal gestione. Vuol dire che chi gestisce queste cose le fa bene così. Da noi purtroppo non funziona così. Da noi ognuno, ogni squadra ha un mezzo, la squadra di conduzione ha un mezzo e c'è il responsabile del mezzo. Lo possono guidare tutte e due, perché siamo, sono tutti in coppia i conduttori, però il responsabile è uno del mezzo, quello che lo guida, quello che ce l'ha in affidamento. Ok? Mentre invece io sono solo, ce l'ho io e basta. Se quello devo dare il mio collega, allora ci vuole l'autorizzazione per poter spostare il conducente da una parte all'altra o l'affidatario, se no non funziona così. E dal momento in cui tu hai la macchina sei responsabile del mezzo, qualsiasi cosa succede sei tu responsabile, quindi sono cacchi tuoi. Questo è quello che dopo di te fa questa parte l'azienda ha menzionato, e ci va bene, perché ci va, a me personalmente mi sta benissimo, perché c'è molta più, meno negligenza in tutte le cose, sia inerenti al lavoro sia inerenti ai mezzi, c'è più attenzione, tante cose sono cambiate, a me mi fa bene, perché ero stufo di stare a voci, io sono molto pignolo con le macchine, ho fatto anche il responsabile dei mezzi tanti tanti anni fa, ti posso dire che c'era da diventare scemo, capito? Perché molti facevano danni, non ti avvisavano, molti tenevano la macchina meglio i porcini, con tutto rispetto per i porcini, capito? Quindi c'è molta gente che se ne frega. Io ultimamente ho detto ad un collega, ma non ti vergogni a usare la macchina in quelle condizioni, che le stava uscendo il prato inglese nel cruscotto dalla terra che c'era, da Robinho che c'era, e mi ha detto, a chi la mia la macchina, complimenti, continua così che tu vai avanti. Infatti non c'è passato neanche un mese che gli hanno tolto la macchina, adesso sta viaggiando con la macchina sua da Sassari a Sorso al posto di lavoro, capito? Bisogna far funzionare la testa, perché quando ti danno in affidamento un mezzo, anche se non è tuo, non bisogna fregarsene, te danno in affidamento e in quel momento che è affidato a te tu lo devi custodire. C'è gente che è pinghiosa e non era frutti nuda, capito? Vai, vale. La mattina più che altro, perché io la sera non lavoro, io lavoro fino alle 2, al massimo alle 3. Se entro alle 6 e mezza esco alle 2 e mezza, poi una volta alla settimana esco all'1 e mezza e il resto alle 3. Ma diciamo che sì, si lavora, perché si lavora, però il problema è che è molto frenetico come lavoro, devi stare sempre correndo da una parte all'altra, capito? Perché ci sono consegne da fare a orario e devi muoverti, perché sennò quella lì ti apre apposta, tipo, cosa ti posso dire, facendo un esempio, le vicenziane, la Caritas aprono apposta il posto per andare a portare la roba, quindi vanno a quell'ora lì, se tu non ti fai trovare a quell'ora perdi lo scarico. Merce alimentare, pasta, pelati, olio, di tutto e di più. Ho capito anch'io, sì. Vabbè. Ma è Ratapignara dov'è? Oh, Ratapignara! Mi sto stupendo perché sto digerendo. Dalla maniusa al sonno. Che ti ha detto che come entra un pipistrello? Il pipistrello fa così, hai capito? Si appende, prima mangia di tutto quello che trova, poi si appende e si addormenta appeso, così fa lui. Capito? Lui fra un po', Gianni, fa la fine di Cosomi, di Gianni di Luna e Sole, capito? Si addormenta parlando. È la volta che gli è scoppiato Allora, così fa lui, a ratapignare, sì. Ui, ui, ui, Sant'Antonio mio, come sto? Via, c'è un senso di benessere, mi. Il volume è un po' basso, bello, sta venendo quel suono naturale che di notte non mi viene. Ma che te c'è un pipistrello da giritto? Prendi le gocce, così dormi, russi e ti alzi bene la mattina alle 7, sai quando è bello, io alle 9 e mezzo, alle 10 mi inizio già a prendere sonno nel divano, poi me ne vado a nanna, boh, alle 5 e mezzo, alle 6 apro gli occhi, mi alzo, mi preparo, mi lavo, aio a trabaccos. Mi, già dormito c'è, mi farei, Sicuro? Che era tabignano e mangia dolci, capito? Mangia insetti, mangia di tutto, pigia ma pompa. L'ho sentito, non sono io, qualcun altro. Sì, mi è venuto un po' di abbiocchetto dopo mangiare, poi quel panino era enorme, mi ha saziato proprio e quindi non ho mangiato altro. Adesso bello, adesso mi rilasso, mi chiudo gli occhi, mi faccio una dormita di 3-4 ore e poi mi guardo la TV. via, è TV uscito, va bene, dai, io mi allontano un attimo, inizio a prepararmi che sono già le 7:20 e così sistemiamo anche il cagnone, ciao anche chi è in PNR che sta ascoltando, da Maria, Giulio Luca e tutte cose. Comunque per la cronaca, se state ascoltando il pipistrello, in algherese si chiama Ratapignara, capito? Quindi Marco, siccome è uno che non dorme la notte, da oggi non è più Marco Condor, quindi è un uccello diverso, è un pipistrello, Ratapignara. Ci sentiamo dopo, il cambio per Gianni Doppio Room, passo. Cappa, dai, riprendi Marco che anche io fra poco vado, là, che sennò poi c'è freddo a scendere. E, dai, vi saluto già da qua che sto facendo altre cose in questo momento e poi magari ci sentiamo domani, dai. Grazie per il QSO e buona serata. Ci sentiamo dopo già, va lì. Che sarà tappignata? Io ho il fuso orario di New York. Ma per me è equivalente, cioè, e sono spostato di orari, ma alla fine è la stessa cosa, anziché la mattina esco la sera, quando esco, oggi non ne ho voglia proprio, e mi sta venendo proprio un sonnicello, quel panino non finiva più, era un panino tipo fast food, ma fatto in casa, molto grande, infatti adesso non sto al baracchino, dai. Mi accendo la televisione, mi guardo qualcosa, dai. Magari il telegiornale, a vedere cosa dicono, dai. Vi saluto tutti, ciao Valerio, ciao Giuseppe, se mi ascolti. Ci sentiamo domani, dai.